rassegna stampa Europa. Dobroveče. Dobrodošli u Euritmiju. Prvo od 35 emisija o europskim integracijama. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa dell'Europa. È dunque quasi inevitabile iniziare con il canale televisivo croato che a inizio settimana racconta la prima volta, il primo voto per l'Europarlamento appunto della Croazia. Lo ricordo, la Croazia entrerà formalmente nell'Unione Europea a partire dal 1 luglio, ma c'è stato bisogno, come dire, di una elezione transitoria per dare una rappresentanza al Parlamento, appunto, dei deputati. Ma noi citiamo subito invece una testata, un quotidiano dei vicini di casa, e mi riferisco alla Slovenia. Infatti il quotidiano Dielo si interroga sulle ragioni della bassa, anzi bassissima, affluenza alle urne nella scelta degli europarlamentari. Naturalmente si tratta di una by-election, come viene indicata, perché lo sapete, nel 2014 ci saranno le elezioni piene per tutti quanti dei parlamentari europei, quindi insomma si tratta di un mandato un po' particolare. In ogni caso il quotidiano di Lubiana si interroga appunto sulle ragioni che portano e che aumentano di fatto il disinteresse anche in quella che dovrebbe essere evidentemente l'area più interessata, cioè un nuovo paese in ingresso nel sistema. La Croazia, dice l'editorialista appunto di Dielo, è in realtà ha un fortissimo desiderio di far parte di questa Europa. Certo è che i politici locali non hanno affatto presentato bene il processo, sottolineando soprattutto aspetti di complessità rispetto a quelle che sono le possibilità. Insomma, cominciamo dalla Croazia, proprio un accenno per segnalare in fondo come in questa grande generale crisi dell'economia mondiale, dell'euro e dell'Europa in maniera particolare, ecco, questa riflessione attenga anche paesi che di fatto non sono ancora entrati, saranno i prossimi ingresso. Ecco, questo era Dielo, il quotidiano di Lubiana, dunque Slovenia. E adesso invece parliamo di quanto scrive Der Standard, che è un quotidiano di area liberale austriaco. Si occupa, non è l'unico, ma ne citiamo un caso specifico, dell'Ungheria. L'Ungheria con il vero e proprio braccio di ferro, di fatto, che va avanti da tempo tra il Premier Orban e la Commissione europea. La richiesta di interventi, o meglio di non intervenire sulla Costituzione e le leggi fondamentali del Paese, è al centro davvero di un braccio di ferro da tempo con le istituzioni europee. Orban, da parte sua, primo ministro, con un voto fortissimo, con un voto che è stato a suo tempo plebiscitario, tira dritto per la sua strada. Da questo punto di vista il quotidiano austriaco, lo ricordo, Der Standard, lamenta la non disponibilità da parte di Orban di prendere in considerazione quelli che sono i suggerimenti dell'Unione Europea in favore di una maggiore attenzione per le libertà civili, i diritti, la libertà di espressione. Questo è invece Der Standard che scrive appunto da Vienna. Un altro genere di rabbia è invece quello che viene segnalato tra i finlandesi dal quotidiano di stampo di impronta liberale che si chiama Pohjolainen, è un quotidiano di Helsinki, e racconta dunque la rabbia dei finlandesi per i cosiddetti salvataggi costanti. I salvataggi costanti sono quelli che riguardano ovviamente Grecia, Cipro, insomma gli interventi finanziari per queste nazioni, ma non solo. E leggiamo allora Ora nell'articolo l'opposizione critica fortemente il governo finlandese per la decisione di contribuire ancora una volta ai pacchetti di salvataggio dell'area euro. Il quotidiano, lo ricordo, di impronta liberale, Poilainen, critica anche la posizione dell'opposizione interna. La Finlandia ha il suo posto all'interno della comunità occidentale e l'Europa è essenziale per il futuro del paese, perché la Finlandia vive di esportazioni. Insomma, anche all'interno della Finlandia c'è un dibattito, come dire, cercate di non martellare troppo il fronte europeo, perché siamo sì un paese forte, sì un paese sano in termini economici, ma viviamo di esportazioni, un promemoria quasi quello della Finlandia. Un altro tema che ha fa parte di un dibattito di respiro molto ampio, che è quella della trasparenza della ricchezza dichiarata e non dichiarata, emerge questa settimana da Le Monde, il quotidiano appunto del pomeriggio francese, e in particolare sottolinea un invito, che è quello del filosofo François Galichet, che dice: altro che divulgare la ricchezza dei politici, bisogna imparare in Europa a accettare l'idea che la ricchezza di tutti i cittadini, in questo caso dice quelli francesi, devono essere in grado di esprimere, di rendere trasparente la propria, appunto i propri redditi. Naturalmente, come dire, un tema, un gran classico potremmo dire, che ritorna in Francia più che mai in queste settimane per gli scandali che hanno, come sapete, costate la poltrona a un importante ministro del governo, appunto, della presidenza francese. Ma non è solo il governo di François Hollande ad affrontare queste questioni. In Europa i vicini belgi su questo punto insistono da tempo, anche perché proprio la stampa francese nelle ultime settimane ha segnalato quanti cittadini, diciamo per tutti, abbiamo ricordato il caso di Pardieu, ma sono migliaia di cittadini francesi che di fatto prendono la residenza e la residenza fiscale in Belgio. Allora, Der Morgen, quotidiano naturalmente di lingua fiamminga di Bruxelles, dice: gli stati membri devono fare molto di più, agire subito, reprimere l'evasione fiscale. Secondo il quotidiano Der Morgen bisogna farla finita con le fughe in mare aperto. Il riferimento è quello alle isole, ai paradisi fiscali, a quelle 130.000 persone ricche che, scrive Der Morgen, nascondono una parte o tutta la propria ricchezza in quelli che sono i paradisi fiscali. E questo era il quotidiano belga in lingua fiamminga De Morgen. È evidente, non sorprenderà, che sono in realtà moltissimi gli articoli sulla stampa europea questa settimana che affrontano proprio il tema dell'evasione. Quello belga ne fa un taglio, diciamo, specifico, che riguarda proprio di fatto la nomea anche che, soprattutto nei rapporti con la Francia, il Belgio si è fatto negli ultimi anni, ma il tema è ben più ampio. E dal Belgio ci spostiamo invece in Germania. La Süddeutsche Zeitung parla di AfD, tra l'altro. AfD è il nuovo partito che prende piede in Germania, un partito dichiaratamente anti-europeista. Domenica si è svolta la prima convenzione del partito e il primo punto affrontato dai delegati è stato quello dell'uscita ordinata dall'Eurozona. Secondo la Süddeutsche Zeitung, per Angela Merkel questa questione diventerà sempre di più un problema. Siamo all'ultima segnalazione, che parla di Unione Europea ma ci porta lontano, infatti riguarda il piano europeo per cancellare dopo anni le sanzioni nei confronti della Birmania, Myanmar. L'Unione Europea potrebbe dunque decidere di sospendere le sanzioni nei confronti di Myanmar, Birmania, e potrebbe farlo già da lunedì prossimo. Questo ci ricorda Reuters nel suo bollettino settimanale dedicato alla politica europea. Bene, con questo direi che abbiamo concluso il nostro sguardo sull'Europa, sulla stampa europea che racconta anche gli sviluppi politici, culturali, economici dell'Unione Europea. Vi ricordo solamente che questo, come tutti i nostri programmi, potete ritrovarli su radio24.it. Un saluto da Gigi Donelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.